soprattutto storica, economico-sociale, mi sono occupata in particolare dei problemi della formazione della classe operaia in Germania, e questo mio contributo sarà di orientamento storico in senso stretto, quindi un po' anomalo rispetto alla, così, al taglio che ha avuto il convegno. Sì, devo fare una piccola correzione rispetto al titolo dell'argomento annunciato da Schiera, in quanto questo intervento verterà in primo luogo sul dibattito parlamentare avvenuto al Reichstag tedesco sulle sui Sozialistengesetze nel 1878. Nel corso dell'intervento analizzerò quali fossero gli argomenti adotti dalle forze politiche favorevoli a far passare le leggi antisocialiste. Poi successivamente l'intervento si articolerà attraverso un'analisi degli argomenti invece adotti dalle forze che erano contrarie alla legge, in primo luogo i liberali di sinistra, il Partito del Progresso e il Zentrum Cattolico. E infine ci sarà una analisi sulla percezione che le diverse forze politiche presenti al Reichstag avevano del fenomeno socialdemocratico e sui rimedi che tali forze proponevano per risolvere o limitare l'incidenza di questo fenomeno. Questa riflessione si accompagna a delle considerazioni relative alla modernità o meno della struttura o della realtà politico-sociale del Secondo Reich tedesco e del ruolo dei partiti all'interno di questa struttura. La storiografia più recente sul Secondo Impero tedesco è proceduta oltre le tesi sostenute a suo tempo dalla Neue Sozialgeschichte ed in primo luogo da Ulrich Wehler, uno degli esponenti più famosi di questa scuola, rispetto alla fatale arretratezza delle strutture politiche dello Stato unitario tedesco. Da tale arretratezza sarebbe derivata poi quella costante inclinazione a soluzioni di tipo autoritario sfociata nella catastrofe nazionalsocialista. La nuova storia sociale aveva focalizzato la propria ricerca e la propria critica, si tratta infatti di una storiografia fortemente connotata in senso militante, su quegli aspetti dell'assetto politico-istituzionale che facevano del Kaiserreich piuttosto una monarchia costituzionale che un sistema parlamentare compiuto. I principali erano l'irresponsabilità del governo rispetto al Reichstag, la nomina imperiale del cancelliere, il peso ingombrante della Prussia, dove continuava a vigere il famigerato Dreiklassenwahlrecht, il ruolo della burocrazia, in cui si incarnava di fatto la continuità dello Stato, ed infine le ampie prerogative della corona nei delicatissimi settori della politica estera e della difesa, sottratte allo stesso controllo governativo. Contributi più recenti, in primo luogo da parte della storiografia anglosassone, penso qui soprattutto ai contributi di Blackburn ed Ely, hanno invece esaminato con maggiore attenzione la realtà politico-sociale del Secondo Impero, mettendone in luce gli elementi di modernità e contestando quindi esplicitamente la tesi della via particolare del Sonderweg, gravida di sciagure su cui si sarebbe incamminata la Germania già al tempo del suo costituirsi in Stato unitario. Da parte di tali storici vengono soprattutto sottolineati il livello relativamente ampio di organizzazione politica, il precoce costituirsi di gruppi di interesse, più o meno strettamente collegati ad un referente partitico, nonché il rapido superamento della dimensione locale e regionale dei gruppi politici, a favore del dispiegarsi di strutture partitiche omogenee a livello nazionale. Quest'ultimo fenomeno subì un'accelerazione notevole grazie all'esistenza precoce, come ricordato ieri da Dipper, della precoce fondazione del Partito Socialdemocratico. Infatti, i partiti tedeschi avevano assunto in un primo tempo, analogamente a quanto avveniva in Italia, una fisionomia di cosiddetti Honoratiorenparteien, partiti di maggiorenti, strettamente collegati ad una dimensione locale, la cui attività era proiettata in primo luogo alla gestione delle scadenze elettorali e quindi in una dimensione di subordinazione anche del momento organizzativo allo scontro elettorale. Rispetto a questa struttura, molto elastica e non particolarmente irrigidita, il Partito Socialdemocratico costituiva una novità rilevante. Infatti, il Partito Socialdemocratico, che non poteva aspirare ad alcuna forma di compartecipazione al potere politico, poneva il momento organizzativo, cioè dava priorità al momento organizzativo rispetto al momento della partecipazione allo scontro elettorale, e si poneva inoltre precocemente come società a parte, come società chiusa in cui appunto gli iscritti e la classe operaia tedesca facevano riferimento e che costituiva una specie di prefigurazione poi della futura società socialista. E quindi abbiamo una concezione partitica completamente nuova rispetto al modello che si era affermato precedentemente a partire dalla rivoluzione del 48 in poi. Va anche tenuto presente che, questa è un'osservazione di Thomas Nipperdey molto acuta, che mentre per gli altri partiti esistevano dei valori esterni alla sfera privata che andavano al di là della politica, degli obiettivi condotti dai partiti stessi, pensiamo per esempio al ruolo che a valori come lo Stato nazionale per i nazionalliberali, oppure la corona prussiana per il Partito Conservatore, la stessa fede cattolica per il Zentrum, per la socialdemocrazia il partito assumeva nel contesto del Secondo Impero invece un valore prioritario ed assoluto. Il Partito Socialdemocratico scelse di utilizzare le scadenze elettorali come momenti di propaganda dell'idea socialista, presentando quindi i propri candidati anche in quei distretti elettorali in cui non sussisteva alcuna chance di vittoria. Quindi, fin dall'inizio, il Partito Socialdemocratico si pose come partito nazionale presente su tutto il territorio del Secondo Reich. Di conseguenza, pure gli altri partiti furono spinti a superare la dimensione regionale della competizione elettorale, basata sul calcolo delle probabilità di imporre il proprio candidato, ed assunsero tendenzialmente, qui sottolineo tendenzialmente, la fisionomia di forze politiche nazionali. Un simile comportamento elettorale indusse un consolidamento delle rispettive strutture organizzative, contribuendo a rendere più omogenei gli stessi milieu sociopolitici che ai partiti facevano riferimento. Dal canto suo, anche l'organizzazione sindacale delle Freie Gewerkschaften diede notevole impulso alla formazione di associazioni di datori di lavoro estese a tutti gli imprenditori di un determinato ramo economico, sorte per fronteggiare l'organizzatissima controparte operaia. Una forza politica antisistema, qual era senz'altro la socialdemocrazia nel Kaiserreich germanico, si trovò dunque a svolgere una funzione di primo piano rispetto ai processi di unificazione ed omogeneizzazione di forze politiche e sociali, più o meno staatserhaltend, che si erano sviluppate in un contesto fortemente regionalizzato all'interno di una struttura statuale federativa. Qui, come è stato già ricordato, vorrei fare presente anche che in Germania dal 1867 esisteva un suffragio universale per l'elezione del Reichstag, che venne poi mantenuto anche dopo la fondazione dell'impero, e che la precoce introduzione del suffragio universale favorì questi processi di organizzazione politica a livello sociale. Anche la tesi della scarsa incidenza del Reichstag nei confronti del governo è stata considerevolmente ridimensionata. Soprattutto dopo la caduta di Bismarck nel 1890, i cancellieri che si susseguirono erano di fatto costretti ad appoggiarsi ad una maggioranza parlamentare, se non volevano veder paralizzata l'intera attività legislativa. Infatti, una delle prerogative più importanti del Reichstag era la votazione del bilancio statale, Questa prerogativa assunse sempre più importanza quando, nel passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale, quando la sfera dell'attività statuale, anche nel settore dell'assistenza, pensiamo alle riforme bismarckiane degli anni Ottanta, assunse un peso crescente. Non a caso il cancelliere Bülow cadde su un progetto di legge di riforma fiscale bocciato dal Parlamento. Resta comunque il dato di fatto che lo spazio a disposizione dei partiti politici nel Kaiserreich era alquanto ridotto. Peter Nettl ha caratterizzato efficacemente la loro situazione come impossibilità di conquistare il potere politico. Di conseguenza, i partiti tedeschi erano costretti a rinunciare a quella che sarebbe dovuta essere la loro principale funzione in un sistema politico di tipo parlamentare. Alla marginalità del ruolo politico dei partiti nell'ambito della Costituzione tedesca va fatto risalire il loro oscillare tra la pura petizione di principi, cosiddetti Weltanschauungsparteien, in un primo tempo, e la rappresentanza di interessi parziali in un secondo tempo, ruoli su cui sarebbero dovuti ripiegare non potendo assolvere alla loro funzione primaria. Nella società guglielmina, del resto, lo status di deputato al Reichstag godeva di scarso prestigio e i giovani di belle speranze preferivano indirizzare i loro sforzi in direzioni più promettenti, quali il mondo dell'industria o l'alta burocrazia statale. Non fu senza motivo che dopo il 1890 i partiti tedeschi, con la parziale eccezione della socialdemocrazia, non fossero in grado di esprimere politici di alta caratura. Questo fatto ebbe poi conseguenze nefaste nel periodo weimariano, quando le forze politiche si trovarono ad assumere la gestione del potere con un personale che nel suo complesso non disponeva delle qualità che la gravità della situazione avrebbe richiesto. Inoltre, i partiti si irrigidirono precocemente in una specie di gestione burocratica del proprio apparato organizzativo e di conservazione del proprio milieu elettorale, rinchiudendosi in un ambito ideale culturale alquanto angusto. Essi si mostrarono di conseguenza poco attrezzati a recepire e gestire quegli elementi di dirompente novità che andavano manifestandosi, anche e soprattutto a livello di sensibilità collettiva, nel corso del primo conflitto mondiale. Anche per questo, la scena politica weimariana fu caratterizzata e destabilizzata dalla presenza di movimenti antiparlamentari a forte carica emotiva, che ben poco si integravano nel sistema di partiti ereditato dal Secondo Reich e che andranno a rafforzare le due forze politiche estreme e nuove, quali la NSDAP e la DKP. È indubbio che il Secondo Reich seguì un processo di modernizzazione diffusa ed accelerata. I livelli di urbanizzazione, migrazione interna ed industrializzazione verificatisi a cavallo del secolo non hanno paragone in Europa. Un giudizio analogo vale per il livello di auto-organizzazione dei diversi gruppi sociali e per la capacità da essi dimostrata di pervenire ad accettabili compromessi sul piano dei rispettivi interessi, al di fuori di una mediazione politica esterna. La modernità del Kaiserreich era tuttavia una modernità fortemente connotata in senso corporativo. La crisi del liberalismo tedesco acuì una delle sue radici. Il concetto di una rappresentanza dei diversi gruppi economici che affiancasse o sostituisse la rappresentanza parlamentare veniva proposto con insistenza ancora durante la Repubblica di Weimar, non solo dalle organizzazioni del Mittelstand reazionario, ma anche dagli esponenti della grande industria. August Winkler ha lavorato, ha dato dei contributi molto interessanti rispetto a questo tema. Nel 1917 Max Weber, assieme a Friedrich Naumann, uno dei più convinti assertori della necessità di una completa democratizzazione in senso parlamentare dello Stato tedesco, riteneva opportuno dedicare il lungo saggio su sistema elettorale e democrazia in Germania ad una confutazione puntuale delle tesi corporative. Va infine tenuto presente che nell'impero tedesco la concezione della priorità dello Stato rispetto alla società civile, come è stato ricordato più volte anche in questa sede, e quindi rispetto ai partiti che di questa erano espressione, costituiva uno dei capisaldi della cultura politica. Non a caso gli stessi partiti, e non solo il Partito Liberale, tendevano in un primo tempo a considerare la divisione in fazioni come un fenomeno negativo, frutto di un temporaneo obnubilamento delle coscienze, destinata ad essere superata una volta che il popolo avesse riconosciuto il proprio vero interesse. Cioè, è vero che il Partito Liberale si poneva appunto come partito verità, come è stato sottolineato ieri, però è vero anche che ogni partito del sistema, nel sistema politico del Kaiserreich si faceva portatore di interessi assoluti che avrebbero dovuto essere supportati in qualche modo da tutto il popolo o dalla maggioranza del popolo o dalla parte migliore del popolo. Come noto, non occorrerebbe forse ricordarlo, Otto Hinze e Heinrich von Treitschke rivendicavano nel primato dello Stato la specificità della nazione tedesca. Adesso passo a trattare il dibattito, cioè entro nello specifico dell'intervento, passo a trattare il dibattito sui Sozialistengesetze. Il dibattito sui Sozialistengesetze, svoltosi al Reichstag nei mesi di settembre-ottobre del 1878, offre numerose indicazioni rispetto alle tematiche sovraelencate. Da una parte, infatti, i partiti rappresentati al Reichstag dovevano prendere posizione sulla legittimità o meno di misure coercitive rispetto ad una delle componenti del Reichstag stesso, e quindi sul tema della libertà politica e dei suoi limiti. Dall'altra, si trattava di identificare le ragioni della diffusione della socialdemocrazia e di proporre possibilmente dei rimedi. La scena si svolgeva 8 anni dopo l'umiliazione dei francesi a Sedan e la proclamazione del Reich germanico a Versailles. In mezzo c'erano stati il Kulturkampf contro i cattolici, il boom industriale postunitario drogato dalle riparazioni francesi, il crack della borsa di Berlino, la Grande Depressione. Bismarck governava appoggiandosi ad una maggioranza di conservatori e liberal nazionali, maggioranza destinata a dissolversi alcuni mesi dopo per il disaccordo dei liberali sulla nuova politica protezionistica del governo. La proposta di legge contro la socialdemocrazia fu presentata al Reichstag per iniziativa del cancelliere, dopo che l'imperatore Guglielmo I era rimasto gravemente ferito in un attentato compiuto da uno squilibrato di cui non erano stati comunque provati i legami con il Partito Socialdemocratico. Sull'onda dell'emozione popolare prodotta dall'attentato, Bismarck riteneva di essere ora in grado di far passare le leggi contro la socialdemocrazia, mentre un analogo progetto di legge, presentato alcuni mesi prima, in occasione di un primo attentato contro il Kaiser, non aveva avuto il supporto della maggioranza parlamentare. I Sozialistengesetze prevedevano di fatto per la socialdemocrazia il divieto di ogni attività politica che andasse al di là della partecipazione alle scadenze elettorali e all'attività parlamentare. Non solo nazionali, circoli, organizzazioni sindacali ed assemblee di orientamento socialista, ma era prevista pure la chiusura di tipografie o altre imprese economiche collegate in qualche modo al partito, nonché delle osterie in cui erano soliti riunirsi i simpatizzanti della Sozialistische Arbeiterpartei. Gli attivisti di maggior spicco potevano venire espulsi a discrezione dall'autorità di polizia. Infine, nei centri in cui la presenza socialista fosse particolarmente vivace e numerosa, era prevista la possibilità di dichiarare il piccolo stato d'assedio, con gravi limitazioni per l'esercizio della libertà di riunione e di opinione. Infatti, ogni assemblea e diffusione di volantini avrebbero dovuto essere sottoposte preventivamente al vaglio dell'autorità di polizia, che avrebbe potuto a discrezione vietarle. Tali misure venivano motivate, tra l'altro, con la considerazione che gli obiettivi del Movimento Operaio Internazionale rappresentavano, e qui cito, si tratta della motivazione data alla legge nella versione presentata al Parlamento, allora gli obiettivi del Movimento Operaio Internazionale rappresentavano una rottura con tutto lo sviluppo giuridico degli stati civili, quale si è andato configurando fino ad oggi, ed un radicale rivolgimento dal basso dei rapporti di proprietà dati. Come è noto, i Sozialistengesetze fallirono completamente l'obiettivo dichiarato di eliminare dalla scena politica il movimento operaio internazionalista. Nonostante le pesanti restrizioni imposte allo svolgimento di una normale attività partitica, la socialdemocrazia portava nel 1881 a 15 il numero dei propri deputati. L'attività associativa continuò alla base sotto etichette di comodo, circoli di lettura, gruppi sportivi e addirittura associazioni di fumatori di sigaro, mentre la redazione del Sozialdemokrat si trasferiva in Svizzera, dove continuava a far uscire il giornale che veniva poi diffuso clandestinamente in Germania. All'inizio del 1890 il Parlamento bocciava un ulteriore prolungamento dei Sozialistengesetze, mentre nel febbraio dello stesso anno la socialdemocrazia otteneva una grande vittoria elettorale guadagnando 35 mandati. Sulla scia di questa clamorosa sconfitta politica, Otto von Bismarck consegnava alcuni mesi dopo le proprie dimissioni al nuovo imperatore Guglielmo II, con il quale aveva avuto pure profonde divergenze sulla questione sociale in generale. La fine dell'era bismarckiana veniva così a coincidere con il riconoscimento, anche se non particolarmente gradito, del Partito Socialdemocratico quale rappresentanza politica della classe operaia tedesca. Il primo paragrafo della legge, da cui derivavano le concrete misure repressive, esposte nei paragrafi successivi, recitava: «Sono da vietarsi associazioni che perseguano aspirazioni socialdemocratiche, socialiste o comuniste, volte a minare il presente ordine dello Stato o della società». A favore di questa enunciazione programmatica, presero ripetutamente la parola parlamentari delle frazioni tedesco-conservatrice e nazional-liberale, esponenti, cioè soprattutto questi ultimi, di quelle forze politiche che avevano sostenuto l'unificazione piccolo-tedesca sotto l'egida bismarckiana e che rappresentavano ancora la maggioranza su cui si appoggiava il governo. Gli argomenti adotti per la messa fuori legge di un partito presente al Reichstag con 9 deputati ed organizzato in modo capillare a livello sociale parafrasavano per lo più il testo della legge, ribadendo che non poteva aver diritto di cittadinanza un partito che si proponesse di sovvertire gli ordinamenti statuali e sociali esistenti. Il deputato conservatore Schwarz, membro della commissione incaricata di illustrare la legge al Reichstag, forniva forse la giustificazione concettualmente più aderente con le misure antisocialiste, affermando che la socialdemocrazia non poteva essere considerata un partito nel senso proprio del termine. E qui cito: «Non esiste nello Stato un partito che nella legalità si proponga di negare, minare e distruggere tutti i fondamenti più alti dello Stato e della società borghese. Una simile associazione non è un partito politico in senso stretto. Ogni partito politico che voglia e debba aspettarsi di essere riconosciuto nello Stato deve lavorare sul terreno preordinato dell'ordinamento statuale e sociale. Un partito che dichiari guerra a questo ordinamento dello Stato e della società non può fare appello per la propria difesa al fondamento giuridico che ne sta alla base, mentre è appunto intento a minare tale fondamento». Di contro, il deputato nazional-liberale Barnberger si limitava a prendere atto pragmaticamente che, cito, «gli scopi della socialdemocrazia si oppongono alla sopravvivenza di una società e di uno Stato come noi ce li immaginiamo». In un ambito di argomentazioni sostanzialmente simili, la componente conservatrice tendeva comunque ad accentuare il pericolo che la socialdemocrazia rappresentava in primo luogo per lo Stato. Esemplare al riguardo l'intervento del deputato von Marschall, cito: «Quando si tratta di decidere se sia il caso di concedere ad un'associazione che persegua un fine politico il diritto alla libera espressione della propria opinione, se sia il caso di riconoscerla come fattore legittimo della vita politica, come partito politico, una cosa è da pretendersi, che esista almeno un qualche legame tra tale associazione e lo Stato, che tale associazione non neghi lo Stato, come fa la socialdemocrazia, già nei confronti dell'assetto elementare spaziale di questo Stato, quale è espresso dalle parole paese natio o patria, in tedesco Heimat e Vaterland. È del tutto evidente che non possono essere applicate le garanzie del diritto di opinione a un partito che dichiari apertamente: noi vogliamo distruggere lo Stato, noi vogliamo sostituire l'ordine sociale esistente con il proletariato internazionale. Chi è disposto a concedere tali garanzie, chi tuteli la socialdemocrazia o un'associazione con tali tendenze, pecca, a mio parere, contro il primo dei doveri politici, cioè il dovere di autoconservazione». Analoghi argomenti venivano ribaditi dal conservatore von Flotwell, il quale sosteneva che la legge contro i socialisti traeva origine dall'essenza stessa dello Stato, a cui non poteva essere negata la potestà di difendere la propria esistenza anche con mezzi eccezionali, qualora le circostanze lo richiedessero. E qui cito l'intervento di von Flotwell: «Per dirla in modo banale ma efficace, lo Stato deve difendere la propria pelle quando venga attaccato da partiti che vogliono annientarlo senza pietà». Era naturale che per raggruppamenti politici che avevano aderito pienamente al modello di Stato tedesco sotto egemonia prussiana, forgiato da Bismarck con il sangue ed il ferro nel corso di tre guerre, il carattere internazionalista del Partito Socialdemocratico dovesse risultare particolarmente odioso. Il liberal nazionale Barnberger riteneva che proprio in Germania, dove il sentimento nazionale non si era ancora sufficientemente consolidato, la socialdemocrazia rappresentasse un pericolo particolarmente grave. E concludeva: il più arrabbiato dei comunisti francesi o italiani è ancora un patriota, paragonato a quegli esemplari che siamo in grado di produrre noi in Germania, quando si tratti di mettere in gioco la stessa esistenza della nazione per una lotta di partito. L'aspirazione liberale di rappresentare il popolo al di sopra dei particolarismi e dei privilegi riecheggia infine nelle parole del nazionalliberale von Goetz, che ammoniva solennemente i colleghi a rinunciare a una politica di fazioni a favore di una politica patriottica, poiché l'ora era grave. Rispetto ai tedesco-conservatori, i nazionalliberali si dimostrarono maggiormente capaci, come avevo già accennato, di definire quale fosse l'ordinamento della società minacciato dalla socialdemocrazia. L'unico esponente di parte conservatrice che prendeva posizione su tale argomento, il consigliere segreto von Kleist-Retzhoff, si limitava infatti a denunciare una serie di luoghi comuni, secondo i quali la socialdemocrazia intendeva abolire ogni differenza basata sulle qualità umane e quindi ogni differenza tra il bene e il male, estirpare ogni religiosità e senso morale tra il popolo, glorificare l'omicidio, distruggere la famiglia e l'istituzione del vincolo matrimoniale. Riferendosi poi all'attentato contro Guglielmo I, da cui aveva tratto occasione la presentazione del progetto di legge, ammoniva: quando scorre il sangue del re, l'ordinamento statale viene colpito nel suo centro vitale. E qui riecheggia forse ancora un momento di quella, appunto, di quel ruolo della figura del sovrano a cui è stato accennato nella discussione di ieri. Più lucidamente, invece, la componente nazional-liberale individuava il pericolo rappresentato dal movimento operaio per gli ordinamenti della società nel rifiuto della proprietà privata e nel principio della lotta di classe. Il nazional-liberale Loewe dichiarava drasticamente che organizzare la guerra di una classe contro le altre costituiva di per sé una forma di abuso dei diritti politici. Loewe individuava nella socialdemocrazia una forza che avrebbe rivolto lo sviluppo della società in direzione opposta a quella auspicata dal pensiero liberale. Qui cito: cosa vogliono i socialdemocratici? Essi vogliono qualcosa che contraddice completamente lo sviluppo dell'intera società e tutti gli sforzi del liberalismo. Noi abbiamo impegnato tutte le nostre forze per stabilire l'uguaglianza dei cittadini dello Stato, affinché, a prescindere dalle diversità nella vita, esistessero uguali diritti e uguali doveri. Questa uguaglianza viene abolita se un ceto si organizza come un'entità particolare, con particolari interessi che cerca di imporre con mezzi particolari. La presenza del Partito Socialdemocratico costituiva una smentita clamorosa alle aspettative dei liberali, secondo i quali la libera competizione delle idee avrebbe portato all'affermazione dei loro principi in tutta la società, o almeno tra la parte educata di essa, in ragione della loro obiettiva superiorità. In realtà, in seguito alla prima industrializzazione, alla Grande Depressione e alla crescente integrazione dell'economia tedesca sul mercato internazionale, i rapporti tra le forze sociali e la strutturazione degli interessi andavano assumendo indirizzi completamente diversi da quelli che i liberali della Paulus-Kirche avevano elaborato. Il loro punto di osservazione, infatti, era dato da una società di piccoli produttori che lavorava per un mercato ristretto e su cui la classe colta borghese era ancora in grado di esercitare senza sforzo la propria egemonia. D'altronde, come ha acutamente messo in luce Karl Rowe, premessa fondamentale del liberalismo è che la società politica non superi un certo ordine di grandezza. E la società tedesca andava superando questa soglia critica. Passo ora a trattare gli argomenti degli oppositori alla legge, soprattutto i liberali di sinistra, Partito del Progresso e il Zentrum, come avevo già anticipato. Di questo raggruppamento, Antisozialisten Gesetze, facevano parte anche gruppi minori come i polacchi, i danesi dello Schleswig e i rappresentanti dell'Alsazia-Lorena. Comune a queste componenti del Reichstag era il timore che la legge potesse venire estesa arbitrariamente a qualsiasi partito la cui attività risultasse molesta al governo in carica. Si avvertiva infatti il pericolo che qualsiasi programma riformatore avrebbe potuto essere accusato di voler sovvertire gli ordinamenti vigenti. Tra i rappresentanti del centro era ancora vivo il ricordo del Kulturkampf, mentre i deputati del partito polacco denunciavano con preoccupazione gli abusi della polizia contro l'attività politica e culturale del loro gruppo nazionale nelle province orientali del Regno di Prussia. Il disegno di legge sulla socialdemocrazia veniva ripetutamente definito un Ausnahmegesetz, legge eccezionale, e si parlava inoltre di Parteigesetz, intendendo con ciò non un partito determinato, ma una tendenza politico ideale, secondo il significato originario del termine Partei. Il rifiuto di votare la legge da parte del partito del centro cattolico non si iscriveva comunque in un sistema di valori legato alla salvaguardia dei diritti del cittadino e delle libertà politiche. Il deputato Reichensperger dichiarava infatti che il partito cattolico considerava la legge del tutto inefficace a combattere il malanno socialdemocratico e proponeva in alternativa di considerare perseguibile penalmente, cito, la stessa dottrina teorica che sostenga il diritto alla rivoluzione. Inoltre si sarebbe dovuto tutelare con il codice penale la fede nell'esistenza di Dio come assioma fondamentale di tutta la società umana. A tali proposte il deputato del Progresso Henel replicava vivacemente che i poteri dello Stato non erano chiamati a giudicare se una data dottrina fosse o meno immorale, antistatale, Staatsuntergrabend in originale, o giuridicamente riprovevole. Secondo Henel, le proposte del reputato Reichensperger ricalcavano le opinioni del sillabo in materia di libertà di opinione e di stampa. Il Partito del Progresso era il solo a impegnarsi in una coerente difesa dei diritti politici dei cittadini del Reich. Henel delineava infatti nei termini seguenti le restrizioni che la legge avrebbe apportato ai diritti fondamentali degli aderenti alla socialdemocrazia. Cito: «È certo che i socialdemocratici vengono esclusi dalla libertà di stampa, dalla libertà di riunione e dalla libertà di associazione, anche quando si attengano ai limiti imposti a queste libertà dal diritto comune, o anche qualora siano disposti ad accettare limiti legali ancora maggiori. Con questa legge, una tendenza politica diviene impedimento al godimento di libertà che dovrebbero essere garantite a tutti. Per una parte dei cittadini che non appartengono a un determinato partito, rimane permesso e non punito ciò che per un'altra parte dei cittadini, che si attengono agli stessi limiti, risulta vietato e sottoposto a punizione in virtù della loro posizione partitica». L'intervento del deputato Henel era stato il primo ad evidenziare l'ambiguità di fondo che percorreva tutto il disegno di legge ed appariva in nuce già nella formulazione «aspirazioni socialdemocratiche volte a minare il presente ordine dello Stato o della società». Il carattere bifronte del provvedimento divenne però del tutto esplicito quando si passò a trattare il paragrafo relativo al piccolo Stato d'assedio e, più specificatamente, a dibattere il problema se anche le assemblee elettorali dei diversi partiti dovessero essere sottoposte a restrizioni. In realtà, la discussione riguardava le assemblee elettorali del solo partito socialdemocratico. Con notevole sottigliezza di argomentazione, il conte Schenk von Stauffenberg, del Partito del Progresso, perorava il pieno diritto per la socialdemocrazia di tenere assemblee elettorali, qui cito, «poiché se c'è qualcosa che rappresenta il contrario di quegli obiettivi che sono rivolti al sovvertimento dell'assetto statale esistente, questa è l'elezione di un deputato del Reichstag, compiuta all'interno degli ordinamenti e delle strutture dello Stato». Con tale atto viene espressa la volontà di collaborare al perfezionamento delle stesse, delle strutture esistenti dello Stato, sulla base delle condizioni esistenti in modo regolare. Anche il deputato nazionale liberale Lasker teneva conto di questa interpretazione, quando affermava che la legge in discussione non intendeva perseguitare il Partito Socialdemocratico in quanto tale. Essa riconosceva ai socialdemocratici, come agli altri cittadini, la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di godere, cito, dell'aria e della luce sotto la protezione dello Stato, impedendo solo che praticassero una forma di agitazione che potesse mettere a repentaglio lo Stato o la pace sociale. In realtà, la proposta di impedire alla socialdemocrazia di svolgere propaganda elettorale si scontrò contro un'ampia opposizione, a cui si unirono gli stessi nazionalliberali. Solo la componente conservatrice si espresse a favore del divieto. Dal coro di interventi a favore delle assemblee elettorali socialdemocratiche e degli argomenti adotti a sostegno delle stesse, si evince che il principio delle libere elezioni si era notevolmente radicato nella cultura politica del tempo. Non sembrava accettabile discriminare a priori dei candidati proprio in occasione dell'elezione dell'organo che era più rappresentativo della volontà popolare. Inoltre, i deputati erano percepiti come espressione di tale volontà e non tanto come esponenti dei diversi partiti. Il dilemma sull'interpretazione delle norme relative al piccolo stato d'assedio non venne sciolto in sede di discussione parlamentare. Tuttavia, nell'applicazione pratica della legge, l'attività elettorale non venne colpita da provvedimenti restrittivi. Di conseguenza, l'ala parlamentaristica della socialdemocrazia si trovò di fatto alla guida del partito, mentre la partecipazione ai lavori del Reichstag assumeva una centralità del tutto nuova. Quasi paradossalmente, per effetto dei Socialistengesetze, si compiva così un processo accelerato di parlamentarizzazione del movimento operaio tedesco. Adesso passerei a trattare la percezione del fenomeno socialdemocratico da parte appunto dei partiti eletti al Reichstag. Al di là delle diverse valutazioni sulla legislazione antisocialista, i partiti manifestarono una sorprendente unanimità nell'indicare le cause del rafforzamento del movimento operaio. Il progressivo radicarsi del movimento socialista in Germania veniva fatto risalire a motivi di ordine morale ed economico. Non desta certo sorpresa che i deputati del centro e del partito tedesco conservatore individuassero nell'indebolimento della fede cristiana la causa principale per il diffondersi del movimento operaio internazionalista. Infatti, una volta venuta meno la fede nella giustizia divina, come affermava un deputato del centro, qui cito, le masse mal consigliate non saranno più in grado di sopportare la miseria che le opprime. Se cade la certezza nella giustizia livellatrice di Dio, consci della forza e del numero delle loro braccia, si ribelleranno e distruggeranno l'ordinamento sociale. Analoghi concetti esprimeva il tedesco conservatore Klaus Retzhoff, il quale riteneva impossibile reprimere le attuali tendenze di pensiero una volta che al popolo fosse stato tolto l'aldilà, e concludeva coerentemente proponendo di ripristinare il Sacro Romano Impero della nazione germanica. Se solamente i conservatori e il Partito Cattolico individuavano nell'indebolimento della fede uno dei fattori che avevano indotto il popolo a lasciarsi sedurre dalle teorie socialiste, tutti i partiti erano d'accordo nel deplorare la profonda crisi morale che attraversava il Reich. Ripetuti interventi, anche di parte liberale, denunciavano la diffusione dell'alcolismo, degli spettacoli leggeri, immorali e degli scritti immorali. Con il beneplacito della legge, il tedesco viene indotto a vizi che finora erano estranei alla sua natura. I nostri buoni, vecchi, solidi, costumati cittadini tedeschi vengono strappati dalle loro case, attirati dalla vita d'osteria che li porta all'adulterio, tuonava il solito Klaus Retzhoff. Evidentemente, il diffondersi del modo di vita urbano e l'elaborazione di una specifica cultura del quotidiano da parte del nascente proletariato industriale venivano qui interpretate esclusivamente come decadenza dei costumi, al di fuori di ogni connessione con i processi di trasformazione economica e sociale che a tali fenomeni erano collegati. Una sostanziale incomprensione verso la realtà del capitalismo industriale, che peraltro, non dimentichiamolo, stava attraversando allora una lunga fase di stagnazione, ci troviamo infatti, ricordo che l'anno è il 1878 e che il crack della borsa di Berlino risale al 73 e quindi abbiamo 5 anni di stagnazione economica. Allora, sostanziale incomprensione verso la realtà del capitalismo industriale si evince ancora più chiaramente dai mezzi proposti per risolvere la questione sociale. La stessa componente liberale giudicava negativamente gli effetti delle riparazioni pagate dalla Francia, in quanto gli arricchimenti improvvisi e clamorosi che ne erano seguiti avevano provocato squilibri e disuguaglianze all'interno di una società relativamente compatta. E qui devo dire che un anticapitalismo così diffuso nella Germania del 1878 mi ha veramente sorpreso, in quanto appunto non aspettavo una tale unanimità di posizioni critiche verso lo sviluppo capitalistico. Il leader del Partito Nazional Liberale, Bennigsen, annotava il riguardo. Mai nella storia, rispetto alle riparazioni, mai nella storia si era verificato che in un lasso di tempo di 2 o 3 anni si realizzasse un trasferimento così colossale di capitale da un paese all'altro, come quello verificatosi all'inizio degli anni 70 dalla Francia alla Germania sulla base del Trattato di Pace. Il sovvertimento che ne è seguito nelle opinioni dei singoli, nei criteri circa la valutazione delle cose, nello stesso atteggiamento che l'individuo assume rispetto alla propria esistenza, l'incredibilmente rapida rivoluzione dei prezzi, tutto ciò ha avuto effetti così perturbanti e negativi da preparare un terreno particolarmente favorevole e fruttuoso per quella propaganda, qui è intesa la propaganda socialista, che forse in altre circostanze in Germania non sarebbe stata possibile. Secondo il deputato Reichensperger del Zentrum, nel 1872 aveva avuto luogo uno sviluppo economico illusorio che aveva finito per affossare il benessere del popolo tedesco. Tutte le componenti del Reichstag, con l'eccezione del Partito Socialdemocratico, erano poi d'accordo nel ritenere che l'uscita dalla crisi sarebbe potuta avvenire solo rafforzando il ceto medio e la produzione artigiana. Certo, al di là di questo consenso minimo, sussistevano delle differenze tra conservatori e liberali. I primi si ripromettevano un risanamento dell'economia e dei costumi dalla reintroduzione dell'ordinamento corporativo. I secondi propendevano per la diffusione di cooperative di produzione come mezzo per risolvere la questione sociale. I deputati del centro oscillavano tra queste due posizioni e si dichiaravano comunque favorevoli ad un assetto organico e regolamentato dell'economia. Paradossalmente, i deputati socialdemocratici furono i soli ad assumere in pieno il punto di vista dell'irreversibilità dello sviluppo capitalistico, sia pure nella prospettiva di un passaggio all'economia pianificata nello Stato del futuro, Zukunftsstaat. Le altre forze politiche continuavano invece a muoversi all'interno di un orizzonte mentale caratterizzato da improbabili modelli di democrazia economica o di rilancio delle corporazioni artigiane. Di fatto, il dibattito parlamentare sulla legislazione antisocialista può essere letto anche come uno dei tanti specchi in cui si riflette quella divaricazione tra realtà economico-sociale ed immaginario politico che percorre come una costante la storia tormentata dello Stato unitario tedesco. Al tempo stesso, esso ci rimanda un'immagine dei partiti del Kaiserreich che corrisponde ancora a quella dei Weltanschauungsparteien, a cui ho accennato prima, cassa di risonanza di principi ed ideali politici astratti. A partire dagli anni Ottanta, i processi di auto-organizzazione dei diversi gruppi di interesse coinvolgeranno anche i gruppi parlamentari, che modificheranno il loro ruolo in direzione della rappresentanza a livello politico di ceti e raggruppamenti sociali ad essi collegati. E rispetto alla discussione che abbiamo avuto ieri, mi è venuto in mente che forse quella fase in cui i partiti diventano punti di riferimento per l'organizzazione di interessi sociali ed economici parziali esterni alla sfera politica, cioè forse questo potrebbe essere considerato anche il momento del superamento del partito verità, cioè l'accettazione della pluralità degli interessi. Questa è una ipotesi che va comunque logicamente verificata. Ciò che resterà immutato nel corso di tale processo sarà l'incapacità da parte del sistema dei partiti tedeschi a porsi come luogo di progettualità politica. Negli anni precedenti lo scoppio della guerra mondiale, tale assenza progettuale andava collocandosi in un contesto caratterizzato sempre più dalle pressioni razionaliste delle associazioni nazionaliste di massa, qui penso soprattutto alla Lega Pantedesca, delle veleità plebiscitarie dell'imperatore, dalla presenza di un potente movimento operaio organizzatosi come società a parte. L'attivazione impetuosa di una società civile che tendeva ormai quasi a coincidere con la popolazione maschile adulta del Reich avvicinava drammaticamente al punto di rottura il rapporto tra tale società e le istituzioni elaborate a salvaguardia di uno status quo ormai irrimediabilmente superato. Il lascito politico di tale situazione sarà una cultura politica antiparlamentare diffusa, sospesa come una spada di Damocle sull'esperienza democratico-parlamentare successiva al crollo dell'impero.